Quali generazioni pagheranno l'attuale crisi economica e come? E per cercare di dare una risposta alla domanda riformulata in questo modo, io credo che sia una buona cosa provare a muoverci su due piani differenti. Uno è quello a cui siete stati certamente abituati dalle lezioni che mi hanno preceduto, tra l'altro voi immagino sappiate, dovevo tenere lezioni a una determinata data, poi per un mio impegno sono slittata ad oggi, e forse non è un male, nel senso che appunto secondo me ci spostiamo di piano e cominciamo, dicevo, dall'affermare che per rispondere alla domanda quali generazioni pagheranno l'attuale crisi economica, i piani di discorso che bisogna tenere aperti sono due. Uno è quello congiunturale, a cui siete stati abituati, ripeto, dalle lezioni che mi hanno preceduto, e uno invece è un piano strutturale, e quando dico strutturale in questo caso la struttura che ho in mente è quella della struttura demografica dei paesi occidentali in generale e dell'Italia in particolare. Perché la demografia, come credo sia intuitivo pensare, è uno dei macroimpulsi che più nettamente determineranno il nostro futuro e che lo determineranno nel modo meno incerto e meno pieno di sorprese. Cioè, quando facciamo delle congetture sulla base della demografia, degli andamenti demografici, queste congetture, ripeto, non sono particolarmente esposte al rischio di errore. Ed è esattamente su questo piano strutturale che vorrei aprire la mia lezione per poi ritornare al piano della congiuntura della crisi 2007-2008. Io do più o meno per scontato che voi della crisi 2007-2008 sappiate tutto, o perlomeno quello che serve sapere, e tra quello che serve sapere immagino che abbiate anche in mente che, siccome la contrazione del prodotto mondiale si è accompagnata anche al problema dei debiti sovrani, c'è stato un problema di ordine aritmetico che ha riguardato la maggior parte dei paesi sviluppati, si è contratto il prodotto mentre aumentava la spesa e questo ha ulteriormente amplificato la questione dei debiti pubblici, il che ha dato forma alla crisi mondiale, la forma cosiddetta W o double dip, crisi finanziaria nel 2007-2008, crisi del debito sovrano apparsa ed esplosa con la questione greca nel 2010 in poi e è tuttora una questione totalmente aperta. Quindi la questione congiunturale è quella della crisi con questa forma W, la questione strutturale, come dicevo, a quella a cui faccio riferimento io, è quella della struttura demografica dei paesi avanzati. Cominciamo quindi da questa questione della struttura demografica dei paesi avanzati. Io credo che ci sia una cosa che forse è persino troppo ovvia, di cui dobbiamo essere consapevoli, che ci riguarda in modo assolutamente diretto, e che non solo viviamo nel continente più vecchio tra tutti i continenti del mondo, ma viviamo in uno dei paesi più vecchi tra tutti i paesi del mondo, anzi per la verità è il secondo paese più vecchio del mondo dopo il Giappone. L'Italia è il secondo paese più vecchio del mondo dopo il Giappone. Allora, se è certamente una buona notizia che le persone vivano sempre più a lungo, è abbastanza importante capire quali saranno le implicazioni di questa tendenza e in particolare quali saranno le implicazioni sul lavoro, quindi sulle possibilità di reddito delle generazioni presenti e future. Perché è abbastanza evidente, probabilmente io dico anche una serie di cose ovvie, ma magari è la sequenza che le rende un po' meno ovvie, che demografia e lavoro sono due piani che vanno strettamente intrecciati. Quando diciamo lavoro, diciamo quanto lavoro ci sarà e quale lavoro ci sarà in un prossimo futuro. Allora, dicevo, su questo piano della struttura demografica ci sono almeno tre discorsi che vale la pena di aprire. Quali sono i gruppi generazionali attivi sul mercato del lavoro oggi? Che cosa sappiamo del tasso di natalità nei paesi avanzati, che cosa sappiamo della longevità della popolazione nei paesi avanzati. Non sono tre discorsi indipendenti, sono tre discorsi intrecciati che ovviamente analiticamente teniamo separati per ragioni di chiarezza. Gruppi generazionali, spesso nella letteratura li vedete, li trovate citati come coorti generazionali. Sono gruppi di popolazione i cui individui nascono più o meno nello stesso arco di tempo, arco variabile, ma insomma che può essere lungo uno o due decenni. Sono interessanti perché tendono ad avere aspettative, atteggiamenti sociali relativamente simili, perché hanno avuto esperienze sociali relativamente simili, soprattutto nell'adolescenza e nella prima età adulta, e che portano determinati marchi generazionali che ci fanno congetturare su come si comporteranno o come si comportano una volta che hanno accesso a posizioni decisionali, oppure, le due cose spesso vanno di pari passo, accesso alle risorse. Attualmente, diciamo negli anni 10 del 2000, le generazioni al lavoro sono esattamente queste. Diciamo che ce n'è una che, spero non si offenda nessuno, possiamo chiamare gli anziani, quella generazione che è nata tra il 28 e il 45. Nei paesi sviluppati questa generazione corrisponde tuttora a circa una forbice che va da tra il 5 e il 10% della popolazione attiva. Ci sono poi i baby boomers, quelli che sono nati tra il 45 e il 65. Sono il gruppo demografico più ampio che il mondo abbia mai conosciuto. Questo ventennio 45-65 ha visto registrare 77 milioni di nascite soltanto negli Stati Uniti e un tasso di natalità nei paesi OCSE, cioè nei paesi più ricchi del mondo, che è arrivato a toccare il 20 per mille. Che, per capirci, di solito queste proporzioni sono sempre più interessanti, il che equivale a 5 volte il tasso di natalità che in media caratterizza gli OCSE oggi, negli anni 10. I baby boomers oggi sono per ragioni all'incirca i 50-60enni che abbiamo in circolazione, usciranno dal mondo del lavoro intorno al 2025, portando con sé parecchie conoscenze, ma anche parecchie risorse. A seguire, i nati tra il 65 e il 79 prendono il nome nella letteratura di generazione X. È la generazione dei quarantenni di oggi, è la generazione che è cresciuta nella guerra fredda, è nata tra il Vietnam e la guerra del Vietnam e la caduta del muro di Berlino. È una generazione che ha visto allentarsi i vincoli familiari della generazione precedente, dei loro genitori, che ha visto anche allentarsi l'idea di una relazione di lungo periodo col datore di lavoro e con il posto di lavoro. È una generazione che crede molto meno di quella precedente a un futuro di crescita illimitata. Per darvi un dato che trovo abbastanza significativo, negli Stati Uniti nel 2004 questa generazione guadagna il 12% in media di meno rispetto ai suoi genitori nel 1974. La generazione Y, a sguardo direi che, ha tolto qualcuno che invece appartiene forse come me ai baby boomers, è quella che vi contraddistingue di più. La generazione Y nasce tra l'80 e il 95. Avranno 30-40 anni nel 2025. Sono quasi nativi digitali, quasi. È una generazione che, questo è quello che auspichiamo, ma anche quello che possiamo osservare, cresce in un modo molto più produttivo e cooperativo della precedente, il che è una fortuna perché si dice che il mondo del lavoro abbia bisogno di molta più cooperazione online e offline. Quindi questa nascita quasi digitale e le modalità di socializzazione di questa generazione Y li dovrebbe... dovrebbe fornire delle caratteristiche virtuose per il prossimo futuro lavorativo. Per capire il futuro del lavoro, cioè diciamo così il lavoro negli anni 20 degli anni 2000, è decisamente la vostra, questa generazione qui, quella che andrebbe tenuta più sotto osservazione. E anche per capire, che poi la risposta alla domanda di partenza, quali tipo di conseguenze da questa crisi questa generazione porterà con sé, quali cicatrici eventualmente porterà con sé negli anni 20 del 2000. C'è una cosa interessante che caratterizza la generazione Y che è stata sottolineata. La linea dell'esclusione dal mercato del lavoro globale per questa generazione non passa più, come era vero per i baby boomers, da dove si è nati, ma passa molto di più dal proprio capitale umano, quindi dai livelli di istruzione e di competenza che si sono raggiunti e dal tipo di motivazione che si è saputo costruire. Questo crea dei fenomeni nuovi e molto interessanti. C'è chi ha detto sostanzialmente che maggiore è la ricchezza che contraddistingue questi gruppi generazionali e la sicurezza delle loro posizioni lavorative, maggiore è l'avvicinamento dei comportamenti a livello globale. Un esempio per tutti: giovani professionisti istruiti di Mumbai sono molto più vicini per comportamenti e atteggiamenti ai loro omologhi della Silicon Valley di quanto non siano con i loro omologhi degli slums mumbaiti della loro stessa città. Ritorno a sottolineare quello che ho detto un attimo fa: la linea dell'esclusione dal mercato del lavoro non passa più o passa sempre meno dal luogo di nascita. C'è un'ulteriore generazione che non è esattamente dentro il mercato del lavoro, ma che sta per entrarci, la cosiddetta generazione Y, quella che nasce dopo il 1996, che è interessante perché è quella decisamente più definita dalla connettività, è quella pienamente nativa digitale. Prima vi ho detto, ci sono tre elementi della demografia che vanno tenuti presente. Il primo è quello dei gruppi generazionali. Non ci riferiremo più a questi gruppi con queste diciture, ma è abbastanza importante capire, non solo perché li trovate citati nei giornali che leggete, nelle cose che leggete, ma per come si definiscono. Dicevo, gruppi generazionali, tasso di natalità, che è quello che vediamo adesso, longevità, tasso di natalità. Un'altra ovvietà: il mondo sviluppato fa sempre meno figli. Il tasso di natalità nei paesi sviluppati è precipitato dopo il 65, cioè chiusa la generazione dei baby boomers, ed è precipitato perché è aumentata la scolarizzazione, in particolare la scolarizzazione femminile, l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro, in generale si sono ampliate le possibilità di scelta in questo senso. Pratiche mediche, pratiche contraccettive, pratiche farmaceutiche, queste sono cose che conosciamo tutti. Una cosa da non dimenticarci è che nel 1979, l'anno dell'ascesa a potere di Deng in Cina, quando si apre la nuova politica economica cinese, si apre contestualmente anche la nuova politica di restrizione delle nascite, la politica cosiddetta del figlio unico. La Cina dal 79 a oggi ha visto decrescere il suo tasso di natalità da 5,8 figli per donna a 1,7 figli per donna. Immagino lo sappiate, ma se non lo sapete, il tasso di natalità in Italia è 1,2 figli per donna, negli anni del boom economico, negli anni 50, era del 2,3, quindi si è più che dimezzato. Immagino che sappiate anche questo: il tasso di natalità che garantisce la stagnazione della popolazione, cioè la riproduzione della popolazione, in linea teorica dovrebbe essere 2, cioè bisogna fare 2 figli per sostituire mamma e papà. Di fatto, poiché le donne vivono più degli uomini e nascono più donne che uomini, questo tasso di mera riproduzione della popolazione è 2,2. Quindi la maggior parte dei paesi sviluppati è sotto al tasso di riproduzione della popolazione. Un'altra ovvietà: la caduta dei tassi di natalità ha un riverbero diretto sulla sostenibilità degli attuali sistemi di protezione sociale. Questa è una cosa con cui facciamo i conti tutti i giorni. Nel 2050 un cittadino su 3 sarà nell'età di percepire una pensione, e questo ha delle enormi implicazioni in termini di spesa pubblica degli stati. I primi a trovarsi in questa strettoia saranno i baby boomers. Cioè, non è escluso affatto che una frangia, forse non piccola, di baby boomers per la prima volta debba prevedere un futuro di povertà o di indigenza. I ventenni in Italia. I ventenni in Italia sono ogni anno, oggi, poco più di 600.000. Ogni anno, se andiamo a contare i ventenni, sono circa 600.000. 10 anni fa erano 800.000, 20 anni fa erano quasi 1 milione. Quindi i ventenni sono sempre di meno, sono più istruiti, eppure trovano sempre meno lavoro. I dati, e lo vedremo passando al piano congiunturale, ci parlano di una disoccupazione giovanile ormai vicina al 40%, ha superato il 39%. Forse è una fortuna che siano così pochi, perché se fossero quanti erano nel 1987, oggi la disoccupazione giovanile sarebbe vicina al 50%. In termini di posizioni cosiddette high skilled, cioè di posizioni ad alta competenza, quindi i ventenni di oggi sono in diretta competizione con gli adulti e con gli anziani, una competizione che a livello numerico è assolutamente perdente. Allora, è questa questione strutturale che sta alla base di quella che Massimo Livi Bacci, prima di qualsiasi considerazione politica, abbiamo appena chiuso le primarie, qualsiasi cosa che pensiamo di Matteo Renzi ha indubbiamente posto un problema così politico-fiscale che è ineludibile, è questa caduta della natalità e l'ascesa invece dei tassi di longevità che vedremo fra un attimo a porre drammaticamente la questione della perdita di prerogative, che sono prerogative economiche ma anche prerogative politiche dei giovani in Italia drammaticamente, nel mondo sviluppato un po' meno drammaticamente ma molto, molto accentuatamente. I giovani almeno da 2-3 decenni hanno perso hanno perso terreno nella polarizzazione tra chi ha rendite di appartenenza, casa, lavoro, reddito e rappresentanza politica e chi non ce l'ha. Se volete un esempio, aprite un qualsiasi giornale o insomma, come dire, guardate i media italiani e misurate quanto spazio viene dato alla pur drammatica questione degli esodati, cioè 50-65 anni, e al lavoro precario. Come dicevo un attimo fa, la dinamica della demografia produce delle distorsioni sotto molti aspetti, ma forse il primo di questi aspetti è quello della rappresentanza politica. Anche qua i dati ci dicono qualcosa di interessante. Se l'individuo mediano in Italia, cioè non il cittadino che ha l'età media, ma quello che ha l'età mediana si calcola lasciando il 50% a destra e a sinistra, quindi se l'età media in Italia aumenta, l'età mediana si sposta in avanti. Se l'individuo mediano in Italia ha 42 anni, l'elettore mediano, che quindi viene calcolato dai 18 anni in su, dai 18-21 in su, a 47 anni, questo significa che c'è un ulteriore quinquennio di differenza, che è anche un quinquennio di differenza nelle priorità e nell'urgenza delle soluzioni. Terzo aspetto della demografia che definisce questo piano strutturale, ripeto, che è assolutamente essenziale aver presente per capire quali saranno e per chi ci saranno dei costi dall'attuale recessione, è quello della longevità. Io credo che valga la pena di perdere un po' più che un attimo di tempo sulla questione della longevità. Qualcuno ci ha ricordato che quando di recente è stato chiesto a Peter Drucker, che come voi sapete è il guru dei management studies mondiale, un americano che ha scritto pile di libri, di studi di management e quindi che si presuppone che sia in grado di capire il lavoro e le tendenze del lavoro, quando gli è stata fatta la domanda su quale fosse a suo parere la trasformazione più importante della vita lavorativa contemporanea, non ha citato la tecnologia, non ha citato la questione energetica, ma l'ha additata senza alcuna esitazione nell'aumento delle aspettative di vita. Nel 2025 si calcola che il 10% della popolazione mondiale avrà più di 65 anni, che nessun paese avrà un'aspettativa di vita sotto i 50, l'età media della popolazione europea nel 2050, oggi è 37,7, L'età media della popolazione europea nel 2050 sarà 52,3. Io vi ricordo che in Italia tutto questo sarà più accentuato ancora. In Italia il 25% delle donne non ha figli, un altro 25% ha un figlio solo. Si calcola che per mantenere l'attuale proporzione tra lavoratori attivi e pensionati si dovrebbe portare l'età pensionabile a 77 anni. È un po' difficile, vedo che ridete, immaginatevi l'università, soltanto quello. È un po' difficile non chiedersi come non fare i conti con l'impatto sulla produttività di un innalzamento così importante della popolazione attiva. Ci torniamo su questo discorso. L'alternativa a questa estensione dell'età lavorativa dovrebbe o potrebbe essere quella per l'Italia di accogliere qualcosa come 2.200.000 immigrati l'anno. Se volete dati su questa cosa che vi ho appena finito di dire, c'è un bel sito, scusate non ve l'ho scritto, insomma www.globalaging.org, ci trovate un sacco di roba. La questione della longevità fa parlare di... io alla fine di questa mia chiacchierata, anzi l'ho affidata a Elio Catania, ho steso una tavola di riferimenti bibliografici, quello che vi sto dicendo ha una referenza da qualche parte, la trovate lì dentro. C'è un gran bell'articolo apparso sul Journal of Economic Perspective quest'anno che parla di una nuova transizione demografica. La maggior parte di voi immagino che studi storia, che cosa si intende con transizione demografica, dovreste saperlo più o meno tutti. Sostanzialmente, ve lo ripeto, si descrive con questo termine quel processo che prende avvio in Europa con l'inizio dell'Ottocento, sostanzialmente con il percolare verso sud e verso nord degli effetti anche sociali della rivoluzione industriale inglese. E rivoluzione demografica in Europa è significata una serie di cose, di trasformazioni in sequenza. A manifestarsi per primo è stato il decremento della mortalità infantile, a manifestarsi successivamente è stato il decremento della fertilità, cioè il numero di figli per donna. Mano a mano che si procede nel corso dell'Ottocento c'è stata una crescita del prodotto pro capite, che a sua volta alimentava la crescita delle aspettative di vita. Alla crescita delle aspettative di vita è aumentato, questo è il punto fondamentale della transizione demografica, mano a mano che aumentava l'aspettative di vita tra 8 e 900, aumentava il peso di ogni coorte generazionale, di ogni gruppo generazionale, ma in particolare aumentava, riducendosi la mortalità infantile, il peso della coorte generazionale di quelli che erano attivi, di quelli che in quel momento stavano producendo beni e servizi. Cioè la porzione di popolazione che in ogni paese dell'Europa sulla via dello sviluppo industriale era attiva nella produzione di beni e servizi. Quindi è questo il punto fondamentale della originaria transizione demografica. Declina la mortalità e in particolare la mortalità infantile, declina successivamente la fertilità, si allargano le coorti concentrate nella età lavorativa. Questo è vero all'incirca tra il 1820 e la fine, la seconda metà del Novecento, ma mano a mano che ci inoltriamo verso gli anni 2000 smette di essere vero. E adesso vediamo che cosa intendiamo con l'espressione nuova transizione demografica, che sarebbe forse la coda di quella originaria, una nuova fase demografica in cui il mondo sviluppato è entrato con la fine del Novecento e in particolare con gli anni, con gli anni 90 del Novecento, con gli anni zero del 2000. L'aspettativa di vita in questa fase, cioè all'inizio degli anni 2000, non si allunga tanto all'inizio della vita, caduta della mortalità infantile, e quindi come allungamento dell'età lavorativa come accadeva all'inizio del Novecento, ma l'aspettativa di vita si allunga negli ultimi anni del ciclo di vita. Per capirci un po' meglio, attualmente più del 75% del guadagno di vita, di aspettativa di vita dei paesi, dei cittadini dei paesi ricchi, si realizza dopo i 65 anni di età, che è come dire, per la prima volta nella storia, declina la mortalità non nell'infanzia ma nella vecchiaia. Quindi la nuova transizione demografica è una transizione verso una longevità sempre più alta. Questo è il problema più serio delle nostre società affluenti e non è un problema solo per i demografi, è un problema che ci dovrebbe interessare assolutamente tutti. Ho da farvi vedere due grafici che ho preso da quell'articolo del Journal of Economic Perspective di cui vi parlavo un attimo fa. Sembrano simili, non lo sono. Quella che vedete qui è la curva che descrive l'andamento delle aspettative di vita alla nascita. La linea blu ve la racconta per gli Stati Uniti, la linea rosa ve la racconta come media dei 16 paesi a più alto reddito nel mondo, entrambe stanno tra due linee tratteggiate che sono le deviazioni standard, queste sono sofisticherie statistiche, abbiate soltanto un'idea di come crescono ininterrottamente dall'inizio del Novecento agli anni 2000, come a partire dagli anni 90 si impennino ulteriormente. Avete due cadute negli anni 10, negli anni 30-40, che ovviamente corrispondono ai due conflitti mondiali. Molto più interessante, sembra simile ma non lo è questa è la curva che sugli stessi paesi, blu gli Stati Uniti, rosa i 16 paesi ad alto reddito, vi descrive l'andamento dell'aspettativa di vita ai 65 anni, cioè dopo i 65 anni, e in particolare i guadagni di aspettativa di vita realizzati, appunto, ripeto, dopo quest'età. Che cos'è che vedete qui? Vedete che la crescita è più rapida, cioè più accentuata verso l'alto, esattamente negli anni 90, cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90 del Novecento. E questo fenomeno comporta un invecchiamento della popolazione dall'alto e non dal basso. Cioè si vive di più non perché i bambini vivono di più, ormai questo guadagno demografico è stato ampiamente, come dire, capitalizzato dalle società contemporanee fino a livelli fisiologici, si vive di più perché la nostra vecchiaia dura di più. Allora, guadagni di aspettativa di vita così sbilanciati in avanti hanno diversi effetti, uno più importante dell'altro. Il primo di questi effetti è, lo abbiamo citato prima, è una sfida alle politiche pubbliche, no? Se non altro perché è quello di cui leggiamo tutti i giorni, sistemi pensionistici nati, calibrati, diciamo così, variamente nel tempo, ma diciamo ritarati negli anni 50-60 del Novecento su un'aspettativa di vita che in quel momento era ancora 65-75 anni, questa era la forbice, hanno dovuto riconoscere che l'aspettativa di vita è aumentata di 10 anni in meno di due decenni, è aumentata di 10 anni tra gli anni 90 e gli anni 0, portandosi, lo vedete lassù, no? È diversa per uomini e per donne, ma insomma è ormai vicina agli 85 anni. Quando i guadagni di aspettativa di vita si producono nell'ultimo segmento della vita, il loro impatto allarga la coorte non di chi lavora, ma di chi è in pensione o di chi sta per andare in pensione. E chi è in pensione o sta per andare in pensione dipende molto, diciamo, dipende maggiormente da trasferimenti pubblici, inclusa laddove c'è naturalmente una maggior spesa sanitaria. Aspettative di vita così sbilanciate in avanti, con questo invecchiamento dall'alto, come lo chiama Livi Bacci, non producono solo questo, vanno ad agire su qualsiasi precedente equilibrio tra produzione e consumo. perché non consumiamo le stesse cose nelle diverse fasi, nei nostri cicli di vita. Quindi non solo cambia la spesa, ma cambia la composizione della spesa, e anche questo pone delle sfide molto serie ai nostri sistemi di welfare. Ci sono dei contrappesi a questo? Certamente ci sono dei contrappesi. Il primo è un vecchio refrain per l'economia italiana, sarebbe quello di agire sulla produttività, cioè di fare sì che aumenti il prodotto per occupato. Il punto è che questo è tutt'altro che facile da realizzare. Ci sarebbe da incentivare il risparmio rispetto ai consumi, cioè spingerci a una vita più sobria, almeno di quella che abbiamo fatto, sto parlando dei paesi affluenti del mondo, negli ultimi 10-20 anni, e ci sarebbe anche da incentivare maggiormente la partecipazione femminile al mercato del lavoro. Immagino non sappiate, ma l'Italia è tuttora il paese, credo, in Europa con la partecipazione femminile ai livelli più bassi. Ovviamente più partecipazione al mercato del lavoro non alza la produttività, ma quantomeno alzerebbe la produzione, che già non sarebbe un dato da buttare via. Però alzare la produttività, che sarebbe la cosa più essenziale, come dicevo prima, non solo non è facile, ma nel momento in cui i deficit pubblici sono una problematica sempre più urgente, questo, e lo abbiamo sperimentato in questo anno di governo Monti, produce una maggiore pressione fiscale, e non c'è niente come la pressione fiscale che agisca a disincentivo della produttività. Quindi siamo un po' stretti in una morsa che ha tante ragioni, ultima ma non ultima, e direi piuttosto fondamentale, quella strutturale demografica. Andiamo a guardare un po' più da vicino l'Italia. Non è che questo grafico ci racconti qualche cosa che non sappiamo già. Ci racconta, per esempio, che chi ha più o meno la mia età, cioè intorno ai 50 anni, può aspettarsi di vivere 10 anni di più della generazione precedente. Voi vedete le due linee che procedono verso l'alto, l'aspettativa di vita femminile e maschile sono leggermente divaricate a vantaggio dell'aspettativa di vita femminile. C'è un aumento costante dai primi del Novecento, con due flessioni che corrispondono, in Italia sono particolarmente accentuate ovviamente, ai due conflitti mondiali. Quali effetti in Italia di questo aumento dell'aspettativa di vita nell'ultima fase del ciclo biologico? Gli effetti sono molti, alcuni li abbiamo richiamati prima. Ce n'è uno che non è così ovvio e su cui mi piacerebbe portare la vostra attenzione, a rischio di scatenare qualche scarabuccia familiare. Gli anziani, vivendo sempre di più, controllano in quote sempre maggiori della ricchezza di questo paese, della ricchezza disponibile in famiglia, diciamo meglio, e la trasmettono sempre più tardi alle generazioni successive. Che cos'è che intendiamo per ricchezza? Spero che sia chiaro a tutti. Il valore di mercato di abitazioni, terreni, box, capannoni, beni reali, più le attività finanziarie, meno l'indebitamento, cioè mutui e altri debiti. Ora, per definizione, in età anziana si hanno meno debiti che in età giovanile. Guardate questo grafico qua, che è interessante parecchio. Questa figura si basa su una rilevazione della Banca d'Italia che misura la distribuzione e soprattutto il cambiamento nella distribuzione della ricchezza tra le generazioni nell'intervallo 87-2000. In mezzo c'è quell'impennata della longevità che abbiamo visto nei grafici precedenti. Voi qui avete delle colonnine nere. Allora, sull'asse orizzontale vedete le diverse coorti generazionali, fino a 30 anni, 30-40, 40-50, 50-65, oltre 65. Sull'asse verticale vedete i livelli di ricchezza media. La colonna nera vi dice dove era concentrata la ricchezza nell'87, la colonna gialla vi dice dove è concentrata la ricchezza nel 2000. Allora, le cose a me paiono abbastanza clamorose. Che cos'è che vi racconta questo grafico? Vi racconta che in termini di ricchezza media tutte le generazioni sotto i 50 anni hanno perso ricchezza. Cioè, le colonne gialle sono più basse. Viceversa, tutte le generazioni sopra i 50 l'hanno guadagnata considerevolmente e quella sopra i 65 in modo clamoroso. Ricordatevi che c'è stato un guadagno di aspettativa di vita alla fine del ciclo di 10 anni in meno di 20. In altre parole, poco romantiche, rispetto al periodo precedente, cioè rispetto al periodo che precede la fine degli anni 80 e la longevità è un'impennata con gli anni 90, i vecchi sono più ricchi e i giovani sono più poveri. Allora, è assolutamente facile, e credo che lo facciamo mentalmente tutti, dirci nella nostra esperienza quotidiana, conosciamo un sacco di anziani che si prodigano a favore delle generazioni più giovani, certamente non conosciamo molti anziani ricchi o straricchi o ricchi affatto. Però per soppesare criticamente quello che ci racconta questo grafico qua dobbiamo tenere presente due cose molto importanti. In Italia gran parte della ricchezza è condensata nella proprietà delle abitazioni e molti anziani oggi in Italia sono in quella situazione che i demografi chiamano house rich, cash poor, che significa che abitano in case di un certo valore immobiliare, specie se sono localizzate in centri urbani. Per Milano questo è certamente vero, anche se percepiscono dei redditi con cui magari faticano a fare quadrare il bilancio. Di sicuro non si sentono ricchi, però in parte lo sono oggettivamente se si considera il valore degli immobili. Questo è un aspetto del problema. L'altro aspetto del problema riguarda invece chi ha meno di 50 anni, cioè la fascia di età che ha tra i 30 e i 50, cioè la fascia di chi è, benché in misura decrescente, a sua volta genitore e si trova in quel ciclo di vita in cui deve investire a favore dell'istruzione dei propri figli. E questo in un momento, in una svolta, diciamo, del mercato del lavoro mondiale, in cui l'investimento in istruzione è sempre più cruciale. Attenzione, altrettanto certamente questo investimento in istruzione ha dei ritorni decrescenti, cioè non rende più come prima. Studiare dal punto di vista economico, cioè dei redditi attesi nel futuro, non rende più come qualche generazione fa, rende di meno. Cioè un buon titolo di studio non è più una condizione sufficiente a trovare lavoro, è più drammatico di così, è una condizione necessaria. È una condizione necessaria a non finire ai margini del mercato del lavoro. Quello che dicevo prima, no? Discrimine tra dentro e fuori il mercato del lavoro mondiale non dipende più da dove nasci, ma dipende da quanto capitale umano incorpori, quanta istruzione e quante opportunità di esperienza sul lavoro ti saranno date. Poi il resto, se volete, ve la giocate voi. Allora, con una ricchezza concentrata nelle mani degli over 65, chi finanzierà questo investimento? Siamo realmente sicuri che gli over 65 saranno così sensibili a una veduta lunga? Singolarmente non dubito che mancheranno persone piene di buone intenzioni, ma questo è un problema contemporaneamente politico e fiscale, e oserei dire che è un drammatico problema politico e fiscale. Cioè questa struttura della demografia, che in Italia, come dire, esaspera dei tratti che sono del mondo affluente, ci dice che i meccanismi democratici, così come li conosciamo, sono sottoposti a delle tensioni fortissime. Allora, nel nostro piccolo, nella nostra ultima tornata, insomma, le nostre primarie, le primarie della sinistra giocatesi domenica scorsa, hanno decisamente posto questo problema. Ripeto, qualsiasi cosa noi pensiamo di che cosa dice, come lo dice Matteo Renzi, queste cose se non le diceva lui, le diceva qualcun altro. La questione del voto ai 16 anni è un problema molto serio, ma in un futuro si potrebbe dire: ha ancora senso concedere il voto dopo gli 80? Ripeto, la democrazia è sfidata da molti problemi globali, diciamo da molte tensioni globali, ma è sfidata dentro i paesi anche e molto profondamente da questioni strutturali di questo tipo.